Buonasera a tutti. Come avete visto e come anch'io ho visto nel documento che preparava la giornata di oggi, neoindividualismo e nuovi legami sociali, le domande che venivano proposte erano molte e io ne sceglierò una di queste che a mio giudizio può essere intesa un po' come un perno per poi intrecciare altre di queste domande, anche se mancano gli altri correlatori, però certamente chi interviene a questo tavolo, poi anche chi interviene in discussione, potrà, credo, aggiungere altri punti di vista rispetto a quello che io vi propongo in un certo senso come punto di partenza di questo tipo di riflessione, perché la scelta che io ho fatto è quello di focalizzare l'attenzione sulla domanda che veniva proposta: sono le appartenenze di classe ancora significative? Ecco, è una domanda che spesso ci facciamo, che molti si fanno, e non da adesso. Ormai alcuni anni in cui ci si chiede: ma dove diavolo sono finite le classi sociali? In un certo senso è dire che cosa ne è del mondo sociale di ieri, perché fino a non molti anni fa insomma, parlare di società spesso significava parlare, leggerla attraverso gli schemi di quella che veniva chiamata la struttura a volte della società proprio, cioè la divisione sociale del lavoro, le classi sociali che corrispondevano a queste e tutte le dinamiche che ne derivavano. Oggi, non soltanto i sociologi naturalmente, non riescono più a destreggiarsi bene col tema della stratificazione sociale. Se qualcuno vi dice che ha la chiave per capire bene come è fatta oggi la società in termini di struttura o stratificazione sociale, non dategli retta, è complicata la cosa. Ci sono vari tentativi di interpretare, ma vedrete subito che la faccenda è molto complicata. E anzi, proprio il tema di oggi è proprio il tema di come sia complicato studiare oggi la stratificazione sociale. In certo senso possiamo dire siamo orfani delle classi sociali, perché se andiamo indietro di qualche decennio era molto più facile fare un'analisi della società. Certo, a volte questa analisi non era fatta bene, adeguata. Ecco, ma in un certo senso non era difficile vedere delle classi sociali, in particolare una corposa classe operaia. Quando dico corposa intendo dire che era grande, relativamente omogenea al suo interno, e quindi, come dire, anche relativamente rappresentabile sul piano politico o della gestione degli interessi nel suo insieme. Non è mai stato del tutto vero, intendiamoci. Però certamente era molto più semplice immaginare da questo punto di vista quali fossero gli aspetti più importanti. Tanto è vero che poi all'idea della classe sociale venivano associate una quantità di cose, non soltanto il fatto che si svolgesse una certa professione, ma a questo venivano associati tipicamente certi interessi nei confronti di altre classi sociali, certi modi di pensare, certe forme di rappresentare gli interessi, una certa cultura addirittura della classe sociale. Ecco, noi fino a qualche decennio fa intorno a queste idee eravamo facilitati, per così dire, a entrare nella descrizione e l'interpretazione della società. Ecco, questo non è più vero. non è più, o perlomeno non è più così vero. Comincio a mettere qualche cautela, perché insomma bisogna stare attenti a non esagerare in questo tipo di interpretazioni, ma questo è appunto l'argomento con il quale io vorrei entrare nel discorso di oggi. E la domanda: sono le appartenenze di classe ancora significative? Ne pone subito un'altra, evidentemente. Significative per che cosa? Ho detto in generale, genericamente, per l'interpretazione della società, però si può essere un po' più precisi. Significative per che cosa? Anzitutto per l'orientamento dell'agire delle persone. Attenzione, una prima cautela proprio di metodo. Le classi non pensano, le classi non agiscono. Da ultimo sono sempre delle persone le quali orientano o non orientano a una certa situazione professionale nella quale si trovano i loro comportamenti, i loro modi di rappresentarsi il mondo, il loro modo di organizzare gli interessi. Allora, è in quel momento che vediamo la classe sociale, ma da ultimo sono sempre delle persone. Ecco, sociologicamente dobbiamo fare questo percorso, se vogliamo poi capire bene se le classi sociali appunto sono ancora e fino a che punto eventualmente importanti per la descrizione e interpretazione della società. Vi faccio un esempio. Ho appena letto una ricerca che è stata pubblicata da una rivista che si chiama Polis, che conosciamo bene, di Pier Giorgio Corbetta, il quale dice che negli ultimi anni le solite variabili sociologiche che noi tradizionalmente adoperiamo per interpretare il comportamento di voto progressivamente continuano sempre più a perdere capacità predittiva, in particolare le classi sociali. Badate bene, ma anche il genere, che fino a qualche anno fa era molto importante, o l'età, sono tutte variabili che non predicano più, come dire, la probabilità di un certo comportamento elettorale. E questo è una spia interessante esattamente di quello che sto dicendo. Le persone non si orientano più nelle loro scelte politiche, no? Al fatto di essere giovani o vecchi, oppure al fatto di essere uomini o donne, o, per quello che ci interessa qui, all'appartenenza di classe. O perlomeno lo fanno meno. Ecco, di nuovo, torniamo. Non esageriamo a dire non lo fanno più. Lo fanno meno. E una volta era molto più facile trovare una corrispondenza di questo genere. Era una corrispondenza molto più elevata. Quindi, anzitutto, allora, la domanda ci porta all'altra domanda, che appunto è significativa per l'orientamento dell'agire delle persone. Le persone possono o no orientarsi a una comune posizione di classe, diciamo genericamente una posizione professionale, possono essere più solidali oppure più individualistici, o possono farlo in modo più strumentale, oppure sulla base di valori che condividono. Ecco, ma quale che sia la ragione, che poi si può studiare, possono orientare o meno il loro comportamento alla situazione di classe. Se ci mettiamo per questa strada, la domanda diventa: come cambia l'individuo? Cioè, come cambia la materia prima della società? Potremmo sviluppare questa prima direttrice di ricerca in questa direzione. C'è un altro modo invece di rispondere a significative per che cosa, ed è significative le classi per la regolazione sociale, vale a dire per cercare di capire come sta insieme la società. Voi sapete che la società, insomma, sta insieme per una serie di meccanismi automatici, per esempio lo scambio di mercato, ma anche per pratiche intenzionali e riflessive. Allora, se ci mettiamo per questa strada, si arriva alla domanda: come cambiano le basi della regolazione sociale? Allora, se noi abbiamo l'ipotesi che siamo orfani delle classi sociali, per ritornare alla metafora di prima, cioè che non è più così semplice ricondurre alle classi sociali una quantità di cose per l'interpretazione della società, possiamo andare alla ricerca delle conseguenze di questo o del modo di essere di questo fatto in relazione, ripeto, all'orientamento dell'agire delle persone, o alla regolazione sociale, che sono due temi evidentemente importanti per l'analisi della società, perché uno riguarda la materia prima e l'altro riguarda il modo in cui la società sta insieme, si regola. Bene, ripeto, non c'è dubbio che per entrambi i punti il riferimento alle classi sociali, per entrambi questi punti che ho detto, sia meno importante di quanto non fosse qualche decennio fa. In altre parole, per gli individui hanno acquistato peso altri riferimenti di appartenenza e anche altre forme aggregate di rappresentanza degli interessi per la regolazione sociale. Tuttavia, io avanzo una ipotesi di metodo, è un'ipotesi di lavoro che però mi sembra produttiva, e cioè c'è stata molta discussione sul punto che adesso vi dico, ma credo, perlomeno per quello che mi riguarda, quello che mi pare di capire di questa discussione, io arriverei a formulare la seguente ipotesi di metodo, e cioè il lavoro continua a essere un riferimento identitario e relazionale comunque importante per l'individuo e comunque importante per la regolazione sociale. Lo sarà di meno, lo sarà in modo diverso, però io trovo che sia produttivo partire dall'idea che è importante e poi cercare di complicare il discorso, cercare di eventualmente di metterlo in difficoltà e ridurne l'importanza. Ecco, ma io non mi sento di abbandonare l'ipotesi che comunque sia non sia così importante al punto addirittura da trascurarle e metterci a cercare per altre strade. Dunque io credo che altre componenti di appartenenza o di riconoscimento vanno innestate su quelle relative al lavoro e alla divisione sociale del lavoro, che dunque dobbiamo capirle bene e in via preliminare. Ecco perché vi dicevo prima che forse le cose che vi racconto hanno uno spazio introduttivo nella discussione che possiamo fare oggi, sulla quale possiamo innestare altre dimensioni di analisi. Il lavoro, e sto sviluppando adesso l'ipotesi che ho detto, conserva infatti delle importanti funzioni. Mi rifaccio a un recente libro di un sociologo francese, il quale le ricorda, anche se indebolite rispetto al passato. Lui dice, fondamentalmente, teniamo presente che il lavoro come istituzione sociale continua a avere compiti, funzioni di classificazione, di identificazione personale, di integrazione della società e di regolazione. Cosa intendiamo con questo? Funzione di classificazione. Ma certo che noi continuiamo a classificare ancora, anche se le cose sono più confuse, sono indebolite, no? E continuiamo a dire, vabbè, sì, questa persona è un operaio, no? Questa persona è un impiegato pubblico, e continuiamo a classificare in questo modo. Qualsiasi cosa possa voler poi dire concretamente e come questo modo di essere sia cambiato rispetto al passato. E continuiamo ad avere funzioni di classificazione. Identificazione personale. Le persone si identificano ancora abbondantemente con un lavoro, meno di prima forse, certo. Poi lo vedremo tra un momento, no? I lavori cambiano molto più di prima, non è quasi un'eccezione un solo lavoro per tutta la vita, poi ci sono fenomeni di mobilità sociale, eccetera, però si continua a rapportarsi in termini di identificazione alla situazione di classe. E gli altri due termini che ho usato, integrazione della società e regolazione, li potrei dire con due termini che a volte usano i sociologi, integrazione sociale e integrazione sistemica, no? E cioè dire come le persone stanno insieme tra di loro, e questo era molto chiaro quando c'era il mondo di qualche decennio fa in cui le classi sociali erano molto strutturate. E quello che si diceva una integrazione conflittuale, nel senso che le persone sapevano di avere degli interessi relativamente differenziati e sapevano di stare insieme ad altri che avevano interessi simili e insieme a quelli sviluppare idee, dinamiche, politiche, eccetera, eccetera. L'altra invece è l'integrazione sistemica, che è quello che chiamavo anche regolazione. Vale a dire, sono gli interessi che sono rappresentati in maniera accorpata per gruppi, per insiemi relativamente corposi, omogenei di persone, che permettono quei compromessi di politici, tra politica e mercato, che regolano il funzionamento delle grandi variabili dell'economia. Quindi, queste quattro funzioni che ho ricordato si sono tutte e quattro indebolite, regoliamo molto meno di una volta, siamo molto meno capaci di regolare l'economia di una volta, no? Basta vedere che cosa succede in quelle che chiamiamo le crisi di oggi. Certamente non è più chiaro il problema dell'integrazione sociale che dicevo, l'identificazione è più dubbia molto spesso, la stessa classificazione a volte ci mette di fronte a delle professioni che non sappiamo bene dove metterle, se sopra o sotto in termini di ricchezza piuttosto che di sicurezza rispetto ad altre e così via. Ciò non toglie che partire da qui, da queste condizioni, per vedere come si modifica, no, può essere un buon modo, piuttosto che non partire, partire da una tabula rasa che non si sa con quali concetti attualizzare e complicare. E allora, partiamo da qui, però subito complicando il quadro. E cioè, dobbiamo riconoscere che effettivamente, ecco, un modo elegante di dirlo, lo dice un sociologo, un economista americano, va riconosciuto che le pareti di economia e società sono diventate più porose. Lui usa questa frase un po' elegante, un po' immaginifica. Che cosa intende con questo? Intende che si diffondono dei nuovi attori collettivi che sono fondati su identità che sono più sociali che economiche. Per esempio, il genere. Per esempio, l'etnicità, se non la razza. Per esempio, l'età. Per esempio, l'handicap. Per esempio, l'orientamento sessuale. Questi sono elementi che stanno diventando più di una volta elementi di riconoscimento e identità sociale, che sono spendibili pubblicamente, che sono rappresentati nell'arena della discussione pubblica, che addirittura danno luogo anche a forme di rappresentanza degli interessi, magari anche sul luogo di lavoro, con delle conseguenze che una volta erano ottenute dal sindacato, per esempio. Bene, se le cose stanno così, le parole che i sociologi userebbero al riguardo è che da un lato è diminuita l'importanza delle classi sociali, nel senso che dicevo prima, per tutto quel tipo di funzioni, ma contemporaneamente anche aumentano, aumenta l'importanza di queste forme di aggregazione che, questa è la parola che usano i sociologi, sono aggregazioni di status. Classe e status sono due vecchi concetti sociologici, insomma, Ecco, mentre la classe sociale appunto è in senso stretto riferita alla divisione sociale del lavoro, queste che abbiamo detto sono cose che complicano il quadro e a volte si innestano le une sulle altre, e a volte no, sono molto più indipendenti. Bene, allora, dopo queste premesse, se ci siamo capiti su questo terreno che ho preparato per sviluppare la nostra analisi, cerchiamo di capire quali sono state in questi anni le tendenze di cambiamento sociale, perché è sotteso a tutto quello che ho detto che la società è cambiata molto, no? Allora, quali sono state? Come possiamo interpretare questo? E allora, la prima cosa da dire è che se vogliamo capire bene dobbiamo avere un'ottica di lungo periodo, non si capisce cosa è successo in 5-10 anni, dobbiamo avere un'ottica perlomeno dell'ultimo mezzo secolo, il secolo precedente, il 1900. Bene, io credo che ci sia un momento di passaggio, non sono solo io evidentemente a crederlo, c'è un momento di passaggio molto importante che in un certo senso segna uno spartiacque e che è costituito dai primi anni 80. I primi anni 80, 1980, 81, 82, in cui effettivamente si percepisce un prima e un dopo. E da sociologo io credo che di poter dire, esagerando solo un po', esagero un po' ma solo un po', che in quel momento si avviano delle operazioni di smontaggio di una vecchia società che aveva una sua conformazione, sue istituzioni, sue regole, una sua struttura, eccetera, eccetera, che badate bene, già cambiamenti tecnologici, organizzativi, culturali avevano minato, non è che sia improvvisamente, però nei primi anni 80 comincia questa opera, come dire, di smontaggio politico anche di una vecchia società senza assolutamente idee chiare di quale società avrebbe potuto sostituirla. Sto dicendo che sto esagerando un po', solo un po' però, no? Nel senso che certo c'erano idee, progetti e così via, ma tutto questo non era affatto chiaro di che società sarebbe uscita fuori da quello che adesso descriveremo. Perché che cos'è che finisce? Finisce quella che possiamo chiamare l'età del capitalismo organizzato. Economisti e sociologi parlerebbero anche di età o capitalismo fordista keynesiano. Ecco, queste sono due parole che spesso non vengono usate, cioè una forma produttiva basata anzitutto sulla produzione standardizzata, su grandi industrie, su una divisione del lavoro che appunto veniva chiamata fordista, e keynesiano perché era relativo ai metodi di regolazione che quella situazione della società che avevo descritto prima rendeva possibili, rendeva efficaci, no? Per cui per esempio si potevano contrattare certe misure che in qualche modo controllavano le grandi variabili aggregate dell'economia, no? Un sentiero di sviluppo, ma al tempo stesso certe ricadute sull'occupazione, la compensazione di certe difficoltà con certi interventi politici che in qualche modo le equilibrassero e così via. E tutto questo avveniva tra forze politiche di rappresentanza degli interessi che erano abbastanza grandi, corpose, omogenee. Naturalmente se questa cosa la vedevamo allora ci sembrava molto più conflittuale, complicata, sembrava che, ecco, se la vediamo a distanza ci rendiamo conto che le classi sociali erano un principio d'ordine, Certo che poteva essere anche dirompente se non governato, se non si arrivava, ma erano un principio d'ordine intorno al quale si potevano stabilire appunto tutte quelle funzioni sia di identificazione eccetera eccetera, ma anche di regolazione economica e sociale che abbiamo detto. Ecco, tutto questo stava già finendo per conto suo in un certo senso all'inizio. Era finito questo ciclo per una serie di ragioni che possono essere studiate eccetera, ma insomma questa forma di industria, alcuni paesi erano già per la strada di forti cambiamenti, altri erano molto più in ritardo, alcuni non erano mai arrivati a un modello puro di questo genere, no? L'Italia per esempio, l'Italia ha sempre avuto molte piccole imprese, poche grandi industrie. Noi immaginavamo che nel tempo saremmo diventati una società industriale come le altre. No, la nostra industrializzazione per molti aspetti ha seguito altre strade. Ecco, per cui stiamo attenti a non omogeneizzare troppo queste immagini. Ecco, però in linea di massima questa tendenza e queste forme di regolazione hanno fatto scuola in quegli anni e era quello che un momento fa ho chiamato il capitalismo organizzato, per rendere l'idea. E naturalmente tutto questo passa attraverso importanti scambi, importanti alchimie, importanti costruzioni che stanno tra economia e politica. Anzi, possiamo usare a questo riguardo una metafora, perché è usata spesso e l'avrete anche sentita. Per un lungo periodo sono quelli che i francesi chiamano i 30 gloriosi anni, no? Le 30 gloriose del dopoguerra, circa 30 anni, si sono ottenuti effetti insieme di crescita economica relativamente costante, ma anche di coesione sociale, che appunto, nonostante conflitti, discussioni, eccetera, eccetera, grosso modo tutti i paesi avanzati hanno vissuto, appunto, ripeto, per circa 30 anni. E quegli accordi che dicevo prima di quegli anni sono stati spesso chiamati i contratti o i compromessi sociali del dopoguerra. È un'espressione che avrete probabilmente sentito, no? L'archetipo, come dire, di questi contratti poi che viene subito in mente sono i compromessi socialdemocratici delle democrazie del nord Europa, no? Svezia piuttosto che Danimarca eccetera, ma in realtà anche se in forma diversa, certamente i diversi paesi hanno seguito strade diverse, ecco, l'idea di poter gestire secondo nelle forme contrattate, in quelle condizioni che quelle strutture di classe permettevano, quelle strutture di produttive permettevano, eccetera, può essere generalizzata in forme diverse. Una distinzione fondamentale che è facile fare è quella fra Stati Uniti e Europa. Non c'è dubbio che gli Stati Uniti abbiano sempre avuto forme di regolazione più lasciate ad automatismi di mercato che non in Europa. In Europa abbiamo sempre avuto una politica che ha inciso maggiormente su questi equilibri che permettevano sentieri di crescita e al tempo stesso coesione sociale, crescita economica e integrazione sociale. Però appunto, anche se in forme diverse, questo per circa 30 anni è stato un modello che ha caratterizzato tutti i paesi avanzati. Cioè, proviamo a dirlo dal punto di vista dei cambiamenti della struttura sociale. Io credo che possiamo dire che anche se in forme diverse, ripeto, con retoriche politiche diverse, quello che si cercava di ottenere politicamente è quello di includere quante più persone possibile in una condizione di piena cittadinanza sociale. Ecco, uso questa espressione, può essere più o meno felice, ma insomma io credo che renda abbastanza l'idea. Cioè a dire, persone incluse in qualche modo in condizioni di vita migliorate, accettabili, più sicure rispetto al passato, con maggiore accesso a opportunità di consumo, con maggiore accesso a possibilità di istruzione, con diffusione dei sistemi pensionistici. Allora, questo è avvenuto in maniera molto diversa in America e in Europa, ripeto, in Europa è stato soprattutto lo sviluppo di sistemi di welfare state. Negli Stati Uniti tutto questo passava piuttosto attraverso rapporti contrattati sul mercato, attraverso, che so io, forme di assicurazioni private contrattate tra aziende e operai per quello che riguarda le condizioni di salute, piuttosto che ecco, ma in forme diverse, tutto questo in qualche modo possiamo dire che faceva aumentare, includeva in una situazione di cittadinanza sociale. Uso questa espressione, credo che molti di voi avranno presente la tipologia di cui adesso parlerò, perché il termine cittadinanza sociale è stato introdotto da un sociologo molti anni fa, che si chiamava Marshall, il quale distingueva tra cittadinanza civile, cittadinanza politica e da ultimo cittadinanza sociale. Cioè nel corso del tempo sono maturati progressivamente ambiti diversi di diritti. Guardate che uso l'espressione diritti, è una parola molto forte, diritti delle persone. I primi sono stati i diritti civili, no? Per esempio la libertà di pensiero, o la libertà di essere, la libertà di possedere delle cose e così via. Diritti politici evidentemente sono quelli di eleggere o essere eletti. E questi diritti sociali sono la novità che si è aggiunta ultima, come dire, in questa sfera di diritti riconosciuti alle persone. Sono i diritti a vivere le condizioni di vita civile come le immaginiamo a un certo momento nelle nostre società, condizioni di vita decenti, condizioni di vita che, ecco, Marshall usava appunto cittadinanza sociale. Ecco, in questi 30 anni c'è stata una, se lo vediamo a posteriori, noi vediamo che nonostante il conflitto, anzi a volte proprio in funzione di questi conflitti, si è arrivati ad ottenere una inclusione, come dire, in questa fascia media della stratificazione sociale. In un certo senso la struttura sociale si è compressa, è cresciuta nel mezzo da questo punto di vista, il sopra e il sotto. Guardate bene, questo avviene anche negli Stati Uniti, che di solito siamo, appunto, siccome è una situazione più liberista, noi senza meno intervento redistributivo dello Stato, eccetera, la immaginiamo. In realtà in quei 30 anni la tassazione è stata fortissima negli Stati Uniti, c'è stata una fortissima redistribuzione. E poi non c'erano interventi dello Stato come li conosciamo nei nostri sistemi di welfare, che per esempio fanno, organizzano certi servizi degli stati direttamente, no? Oppure non è che, ecco, però questa pressione verso il centro, anche vedendola in comparazione tra Europa e Stati Uniti, la vediamo in forme diverse in questi primi 30 anni del capitalismo organizzato. Se vogliamo usare un'espressione, che un'etichetta che in qualche modo ci sintetizzi queste, in questi 30 anni c'è stato un tropismo sociale, chiamiamolo così, verso il centro. un troppismo inclusivo in quella direzione. Bene, vorrei sintetizzarvi ancora un momento, perché sono cose che conosciamo e sappiamo, ma non dovremmo dimenticarcele. Uso l'espressione che uno degli studiosi dei sistemi di welfare italiano e europeo ha usato. Faccio una citazione. Naturalmente qui abbiamo una studiosa del welfare che potrebbe con altre parole dire cose simili. Io uso una sintesi che faceva Maurizio Ferrera, quale dice che al culmine di quell'età del capitalismo organizzato, virgolette, la stragrande maggioranza, se non la totalità della popolazione, era ormai inclusa in programmi di protezione sociale per tutti i rischi standard. Stiamo parlando dell'Europa. Vecchiaia, invalidità e perdita di un familiare, malattia e infortuni sul lavoro, disoccupazione familiare a carico. I diritti sociali di cittadinanza raggiunsero piena maturità e assunsero la stessa importanza degli altri due tipi di diritti, quelli civili e politici, nel plasmare le attese delle persone e le opportunità di vita. Ecco, questo non vuol dire che non ci fossero problemi, che non ci fossero disuguaglianze anche importanti. Ecco, però non dovremmo dimenticare questo, come dire, questo tessuto di diritti in qualche modo costruito nella nostra tradizione europea in quegli anni. Con l'inizio degli anni Ottanta le cose cambiano. Intanto è ormai definitivamente superata la società industriale. Quella società industriale che avevamo conosciuto in Italia poco, ma non ci sarà più da nessuna parte. Certo, continueranno a esserci anche grandi imprese di produzione, ma tutte quelle forme di istituzioni che aveva creato intorno, quelle forme di rappresentanza degli interessi, quelle forme di regolazione, non funzioneranno più come prima. Allora, per sintetizzare dal punto di vista sociologico, nella prospettiva dei sociologi, che cosa sta succedendo, adesso non parlo da economista, che potrebbe seguire come è cambiata l'organizzazione del lavoro, eccetera, per esempio la presenza delle piccole imprese, ma su questo eventualmente che ritornano sulla scena dopo che pensavamo che fossero scomparse o cose di questo genere, ma su questo casomai torniamo tra un momento. Dal punto di vista sociologico di chi studia la struttura sociale, possiamo dire che ci sono due crescenti fenomeni. Il primo è la differenziazione strutturale. La società diventa più differenziata, a partire dall'economia, che sta diventando più differenziata. E il secondo è una spinta alla individualizzazione, parola che fa molto problema, perché è molto complicata da gestire, ne parleremo, perché se ne può parlare da molti punti di vista. Sono questi due processi di differenziazione strutturale, anzitutto dell'economia, e di individualizzazione delle persone, che noi dobbiamo avere bene in mente se vogliamo capire le derive di cambiamento sociale che a partire dagli anni Ottanta diventano sempre più evidenti. Individualizzazione intendo delle condizioni di vita e di lavoro. Bene, sono i due processi che derivano da quella che di solito chiamiamo la deregolazione dell'economia, nella quale cresce la regolazione affidata ad automatismi di mercato. È in queste condizioni che si rimette in moto l'economia, perché c'erano stati dei problemi, non è che improvvisamente compaiono molte più figure professionali, Le statistiche ogni anno rivedono gli elenchi delle professioni perché se ne aggiungono in continuazione. I servizi a consumatori o alle imprese, i prodotti offerti sul mercato si specializzano sempre di più. Nascono reti di imprese, non che prima non ci fossero, ma adesso l'impresa rete sembra essere diventata il modello fondamentale di imprese, che reti di imprese più grandi e più piccole. Che combinano in modo diverso le attività, separano le attività e separano le persone che se ne occupano, che svolgono lavori diversi in luoghi diversi, ma poi ricondotti a una rete. Crescono le figure che di solito chiamiamo le classi medie, no? Gli operai dell'industria diminuiscono. Le statistiche ce lo dicono molto chiaramente, sono meno concentrati, sono più diversi fra di loro, gli operai, e ovviamente tutto questo ha conseguenze sull'organizzazione sindacale, che riesce a rappresentare solo certe categorie e non certe altre in questa nuova situazione, ed è meno assicurata la continuità del lavoro. Questo è il fenomeno che tutti noi abbiamo imparato purtroppo a conoscere, e tutto questo fa aumentare anche la probabilità della la trappola, possiamo chiamarla, della disoccupazione di lunga durata, cioè la disoccupazione che dura per anni. Cresce il terziario rispetto all'industria, e nel terziario le attività ricche o povere sono ancora più differenziate che nell'industria, che con delle conseguenze simili, sia di distanziamento delle attività e delle persone, e conseguenze simili di rischio sul mercato in queste nuove condizioni. Quindi attenzione, perché l'individualizzazione di cui parlavo, individualizzazione delle condizioni di lavoro e di vita, individualizzazione nel senso che gli individui sono più diversi gli uni dagli altri, tende a manifestarsi sia nel senso di una maggiore diversità, professionalità e responsabilità sociale e responsabilità nelle funzioni che si esercitano, che sono caratteri per molti aspetti positivi. Ce lo sentiamo ripetere, ma è vero, molto spesso questo è vero. Però anche nell'esposizione comunque a rischi in un'economia che è diventata più instabile e più stringenti, soprattutto per certe fasce di lavoratori, in cui appunto la responsabilità, la professionalità non coincidono con la maggiore diversità che purtroppo è a condizioni peggiorate da questo punto di vista. In ogni caso, sia per il bene sia per il male, gli individui sono più lasciati a se stessi rispetto a prima. Siccome poi parleremo, credo, anche da altri punti di vista, che saranno magari di sociologia della cultura o di filosofia o altro, del tema dell'individuazione, io vi dico... E faccio un momento una ulteriore aggiunta su questo su questi termini, vedrete che poi ne adopero due, per cercare di spiegare bene qual è il mio punto di vista, cioè qual è il punto di vista che sto adottando sul tema della individualizzazione, in quanto sociologo che studia l'organizzazione sociale e non altre cose, per esempio l'evoluzione della cultura, anche se poi le cose sono strettamente connesse tra di loro. Allora, da questo punto di vista, a un sociologo verrebbe in mente di tirare fuori dal cappello, o per meglio dire dall'armadio dei suoi strumenti, due concetti che sembrano la stessa cosa, invece sono molto diversi, che nella tradizione sociologica sono stati introdotti per individuare questo tema della individualizzazione e individuazione. e che risalgono rispettivamente a Émile Durkheim, uno dei padri fondatori della sociologia francese, e a Georg Simmel, che invece è un tedesco, che negli stessi anni usa. Allora, Durkheim usava in francese individuation, e Simmel usava in tedesco individualisierung. Allora, per intenderci, io traduco il primo individuazione, il secondo individualizzazione, così ci capiamo che sono due cose diverse. Ecco, per Durkheim, Durkheim interpreta tutta la modernizzazione, le novità che si presentano nel grande cambiamento sociale, eccetera, eccetera, in termini, all'inizio del suo percorso, in termini di divisione sociale del lavoro. Aumenta la divisione sociale del lavoro per una serie di ragioni che lui riconduce all'idea di densità sociale. C'è molta più popolazione, questa popolazione è più concentrata, eccetera, quindi si differenziano le attività. E tutto questo, dal punto di vista di Durkheim, è molto importante perché aumenta la responsabilità individuale nei confronti degli altri, aumenta il senso di avere un proprio ruolo. Lui non usava questa parola, ma i sociologi poi l'avrebbero usata, un proprio ruolo nella società, che gli era dato dall'avere una certa professione, alla quale era legato, poteva essere legato perché la sapeva fare, la faceva bene, l'aveva imparata, e gli altri avevano bisogno di lui. Poi Durkheim non era ingenuo, sapeva benissimo che non sempre questo succedeva, ma è perché risponderebbe Durkheim, non è stata fatta bene la divisione del lavoro, c'è stata una divisione del lavoro cattiva e questa non è in grado di produrre delle regole che tengono insieme le persone. Poi anche Durkheim si accorgerà che le cose sono più complicate, ma adesso non entriamo dentro perché non ci interessa. Ci interessa sapere che individuazione da questo punto di vista è l'aumento della specializzazione, della responsabilizzazione e delle capacità che ogni individuo ha nella divisione del lavoro che aumenta, proprio perché ogni individuo ha un ruolo definito, preciso, che lo mette da qualche parte. Simmel non si occupa di questa questione. Simmel studiava le città, giusto appunto. Studiava l'uomo in città, anzi nella metropoli, e si accorge quanto siano differenziate le opportunità di legame sociale che ci sono in una situazione di questo genere. Con un linguaggio moderno, noi potremmo dire che Simmel non era interessato ai ruoli, era interessato a quello che oggi chiamiamo le reti. Le reti che le persone tessono, fanno, disfano, giocando con i loro ruoli, eventualmente, no? Ma stabilendo delle relazioni che sono molto multiple, indefinite. Uno fa parte di un'associazione, pur essendo, supponiamo, un operaio, fa parte di questa associazione, ha questa cerchia di amici, ha questa affiliazione con politica o di rappresentanza, e così via. Le reti sono molto più differenziate. E Simmel diceva, in questo l'uomo è più libero e al tempo stesso rischia molto di più, perché si può perdere in questa ragnatela di reti. Questo è quello che lui chiama individualizzazione, o che noi traduciamo individualizzazione, che voi capite che è una cosa diversa da quella di Durkheim. Perché a me fa comodo, adesso avervi annoiati forse un po' con questa distinzione che sembra sottile, perché a me fa comodo questa distinzione? Perché mi permette di capire bene che cosa sembra che stia avvenendo in questi ultimi decenni della deregolazione, come l'abbiamo chiamato, per rapporto al problema della individuazione e individualizzazione. Perché noi avremmo potuto immaginare che sì, c'erano questi rischi e opportunità di libertà nella vita di rete delle persone, lasciamoli giocare, però con un elemento che ancorava molto bene alla realtà economica e sociale, che era quello di un ruolo definito nella divisione del lavoro. Una sua... Ma è proprio questo che tenderebbe a saltare nella nuova situazione. E qui potremmo avere molti autori che ci hanno parlato. Io riprendo qui un sociologo americano molto letto che si chiama Richard Sennett, il quale ci descrive appunto l'uomo flessibile, cioè l'uomo che deve adattarsi nelle condizioni di divisione del lavoro di oggi. Guardate, non nella vita di città, no? Non nella vita di rete, quella che si può inventare in mille modi facendo le sue scelte di con chi legarsi senza essere più... No, nell'attività di lavoro. Bene, Sennett, in questo suo libro che si chiama La corrosione del carattere, adesso vediamo che cosa poi voleva dire con questo, cita un documento del congresso di questi anni, nel pieno della deregolazione, per mostrare che da 1 a 3 anni dopo un cambiamento di lavoro, le persone che hanno cambiato un lavoro, che cosa ne è di queste persone dopo da 1 a 3 anni? Su 100 interessati, 27 sono disoccupati. 24 hanno un salario inferiore all'80% del precedente, 10 un salario di poco inferiori, 11 grosso modo lo stesso salario e i rimanenti, che sono circa un quarto, un salario anche decisamente superiore. Dunque voi vedete la divaricazione sociale che è in corso. Vedete, insieme i rischi, no? Della nuova situazione, che peraltro, badate bene, rimette in moto in quegli anni l'economia, non è che... E però, con queste conseguenze che stiamo vedendo, la divaricazione sociale è evidente. Allora, a partire da qui, Sennett esplora le conseguenze sulle persone, cioè sulla materia prima della società, come dicevo prima, di questo, e avanza la tesi di questo fenomeno che lui chiama corrosione del carattere. Lui dice, questo insieme di condizioni. Attenzione, perché sta corrodendo il carattere delle persone. Cosa intende con questo? E lui dice, nel capitalismo flessibile, obiettivi di lungo periodo, fedeltà e impegno reciproco, relazioni che non siano strumentali diventano più difficili. Prima era più facile stabilire relazioni di questo genere. E lui questo lo va a vedere facendo delle indagini etnografiche su figure di ceto medio o middle management, e trova che effettivamente c'è malessere, perdita di motivazione, difficoltà a immaginare un ragionevole percorso di carriera o progetti di vita in relativa sicurezza. Che comunque, attenzione, questo è molto interessante, comunque queste possibilità di mantenere in qualche modo prospettive di carriera, eccetera, eccetera, sembrano dipendere, dice lui, virgolette, da una continua capacità di abbandonare il proprio passato. E però riuscendo al tempo stesso a mantenere fiducia in se stessi, no? Continuiamo ad abbandonare quello che eravamo prima, no? E però mantenendo, essendo capaci di mantenere fiducia in se stessi. E voi capite che in queste situazioni diventa problematico a volte investire il proprio capitale culturale in nuove direzioni. Io ho imparato a fare quella cosa lì, e adesso non è mica facile che ne faccia un'altra. Così come diventa spesso inutilizzabile quello che i sociologi chiamano il capitale sociale, cioè il tessuto di relazioni che avevo prima, addirittura devo lasciarlo perdere, cancellarlo a volte, se voglio ricostruirmene un altro. Allora, queste sarebbero le conseguenze individuali. che lui chiama la corrosione del carattere. Però i rischi sono anche in termini dell'integrazione sistemica e sociale più complessiva, perché, dice Sennett, virgolette, un regime che non fornisce agli esseri umani ragioni profonde per interessarsi gli uni degli altri non può mantenere per molto tempo la propria legittimità. Non produce delle ragioni sufficienti perché le persone stiano insieme, non strumentali, non meramente strumentali. Allora, ho tirato fuori Sennett perché è uno dei più radicali nel proporci questa tesi. Allora la domanda che però viene subito in mente: sta esagerando Sennett? Sta esagerando? La situazione è diversa in Europa. Lui ci parla degli Stati Uniti, degli anni 80. Io sono tentato di rispondere forse sì, o in parte sì, a entrambe queste domande. Nel senso che i suoi argomenti non devono assolutamente essere sottovalutati, ma non dobbiamo farci prendere adesso nell'idea che tutto il mondo sia ricostruibile in termini di questa concettualizzazione. È chiaro che ci sono tendenze di questo genere. E meno male che ce le ha spiegate, ce le ha fatte vedere anche con dei dati molto duri. Tuttavia non è che non possiamo immaginare degli antidoti. Non è, supponiamo in Europa, che il welfare state adesso non c'è più, siamo ritornati cent'anni fa, no? Abbiamo dei pilastri importanti ancora che continuamente abbiamo bisogno di adattare. È diventato complicato da gestire, costoso da gestire il sistema precedente. E tuttavia non è che non ci siano delle leve sulle quali... Ecco, però sono tutti argomenti, non solo che non dobbiamo dimenticare, non solo che corrispondono a tendenze che stanno lavorando nella strutturazione della società, ma sono anche esempi dei dati, degli argomenti che hanno generato in questi ultimi anni una nuova immagine delle tendenze di stratificazione sociale in epoca, chiamiamola neoliberale o di deregolazione. E cioè all'immagine che vi dicevo prima di una confluenza verso il centro, si è sostituita quella della divaricazione sociale. Da questo punto di vista sono in atto delle forze che stanno divaricando la società. Allora, quella della confluenza al centro, vi ricordavo un momento fa, che non è che allora, in quegli anni non ci fossero più le classi sociali, non ci fossero più situazioni che non accettabili, situazioni di povertà o altro. Dobbiamo stare attenti, quella confluenza al centro è un concetto che dobbiamo fare lavorare, come dire, nel senso che continuava a esserci differenza delle classi sociali, eccetera. Anzi, sappiamo, l'ho detto un momento fa, che l'esistenza di classi sociali, per esempio una corposa classe operaia, era una delle condizioni perché potesse manifestarsi, ci potessero essere delle tensioni, delle lotte per questa confluenza verso il centro. Allo stesso modo, se esistono queste tendenze di divaricazione sociale, dobbiamo stare attenti che non sono, come dire, le sole cose in atto. Cioè, non siamo in una situazione in cui adesso c'è una polarizzazione per chi c'è e chi non c'è. Certo, facciamo bene a ragionare che c'è una tendenza a vedere che ci sono alcuni che riescono a giocare al nuovo gioco e ce ne sono altri che sono buttati fuori da questo nuovo gioco. Però non siamo in una situazione di polarizzazione sociale, piuttosto siamo in una situazione di divaricazione sociale. È vero, queste tendenze ci sono e dobbiamo confrontarci con queste. Allora, uno dei sociologi che hanno concettualizzato queste nuove tendenze in maniera più forte è un francese che si chiama Robert Castel, il quale parla di cittadini per eccesso e cittadini per difetto. Sono alcuni cittadini, no, come dire, che in questa nuova situazione si muovono molto bene, magari sono anche schizzati verso l'alto in un gruppo più ristretto. E ce ne sono altri invece che stanno perdendo nell'ambiente deregolato e individualizzante, sono intrappolati in percorsi di vita instabile, in lavori precari, non hanno coperture dai rischi, non sono entrati neanche nei sistemi di rappresentanza che ha concesso misure di welfare, eccetera. Questa è stata la deriva di cambiamento sociale degli ultimi anni, e ci sono tendenze e segni di questa tendenza anche in Italia, non c'è dubbio. Se noi posso parlare ancora un momento? Sì. Allora, se posso parlare ancora un momento, vorrei parlare un po' dell'Italia di questi ultimi anni, che forse ci interessa, e che ci permette di vedere come, lasciamo perdere i cittadini per eccesso, vabbè, ci sono anche loro, ma non studio questa parte, sono più interessato a mostrare i cittadini per difetto, cioè queste forme. Ecco, lo prenderei in relazione al tema della disuguaglianza sociale, di nuovo uno dei tuoi temi, e quindi potrai intervenire, perché Laura Pennacchi ha fatto uno studio molto, molto accurato, con una letteratura internazionale molto abbondante, per mostrare come siamo in un'epoca di aumento della disuguaglianza sociale. In quasi tutto il mondo, come dire. Ecco, ma adesso io non parlo delle disuguaglianze che ci sono tra Africa, Europa o cose di questo genere, o delle nuove disuguaglianze nei paesi che stanno partendo, la Cina per esempio, che sono fenomeni molto interessanti. No, io adesso sto parlando del fenomeno della disuguaglianza nei paesi avanzati e in particolare in Italia. E a questo punto non vado più tanto indietro, perché devo soltanto parlare degli ultimi decenni, di una tendenza che abbiamo detto grosso modo comincia all'inizio degli anni Ottanta, ma come si manifesta adesso, in un momento in cui noi sappiamo che siamo di fronte a delle crisi molto serie dal punto di vista dell'economia. Quali sono le conseguenze sociali di questa crisi? Credo che sia utile, per poter capire bene, andare indietro di una ventina d'anni, perché una ventina d'anni fa c'era stata un'altra crisi economica che aveva toccato le economie sviluppate e aveva toccato in particolare anche l'Italia. Allora, cercare di andare a vedere che cosa è successo l'altra volta, perché adesso non abbiamo ancora la soluzione della crisi, non abbiamo ancora, come dire, un'interpretazione plausibile di quali sono le conseguenze sociali. Possiamo fare qualche fotografia, ma come finirà la storia non la possiamo ancora sapere, anche perché poi dipende da misure che saranno prese o non prese per fronteggiare questa situazione critica, no? Quindi, allora, dicevo, facciamo qualche fotografia della crisi di oggi. Ripeto, non è un'interpretazione delle conseguenze sociali, perché non possiamo ancora dirlo. Poi vedremo se l'altra crisi ci insegna qualche cosa, per capire dove potrebbe finire la questione, che poi è relativamente poco, perché questa crisi è più secca, più pesante, e ha anche connotazioni diverse per molti aspetti. Comunque, qualche fotografia della crisi di questi anni, cioè la crisi che si è innestata 2007-2008, insomma. Sono dati che conoscete, non è che poi, perché leggiamo anche i giornali, quindi tanto c'è stato un aumento molto forte della disoccupazione, lo sappiamo. Credo che adesso siamo sui 2 milioni. Ecco, attenzione però, un altro dato è rilevante. È stato calcolato, mi pare che lo abbia fatto Tito Boeri, l'economista, che solo il 10% di chi ha perso il lavoro è coperto da sussidi di disoccupazione o indennità di mobilità. Guardate, questo è un dato secco, eh? E per la maggior parte si tratta di persone che sono attive in quell'insieme di lavori che da un po' di anni abbiamo imparato a chiamare atipici, no? Proprio perché non sono quei lavori là garantiti da diritti, da rappresentanza di interessi, eccetera, eccetera, che dicevo nella fase precedente. Questo è un insieme che è cresciuto, come sapete, negli anni scorsi. Quindi sono persone che per esempio sono assunte a contratto a termine, a progetto, ad altri tipi di contratto, di figure che non sappiamo bene se sono lavoro autonomo o subordinato, no? Tutta una serie di partite IVA di questo genere, eccetera. Resiste meglio chi ha un lavoro con un contratto a tempo indeterminato, però attenzione, la cassa integrazione a 0 ore interessa, quando raccoglievo questi dati, adesso non lo so, quasi 500.000 di lavoratori. E non sappiamo esattamente quando sarà finita e quale sarà il destino di tutti questi. Ripeto, queste sono fotografie che dovremmo aggiornare per migliorarle o peggiorarle in continuità. Però attenzione, i dati più inquietanti riguardano i giovani. E allora io vi voglio dare solo due riscontri che mi sembrano molto eloquenti. Più della metà dei nuovi disoccupati sono lavoratori con meno di 35 anni. Più della metà. Altro dato, oggi un disoccupato su 3 è un giovane con meno di 25 anni, mentre prima della crisi il rapporto era 1 su 4. E questo vi dà un'idea di come la situazione si scarica molto sui giovani, questo, i problemi della crisi di oggi. Un altro dato significativo per esempio riguarda il potere d'acquisto, questo l'abbiamo letto sui giornali qualche tempo fa, perché ci è stato detto dagli economisti che hanno fatto questi calcoli che questa è la prima volta che succede dopo la guerra. Cioè non era ancora mai successo che la capacità delle famiglie di acquistare beni e servizi riferita al reddito delle famiglie, ma al netto dell'aumento dei prezzi, non era mai successo che questo diminuisse. Invece tra ottobre 2008 e settembre 2009 il potere di acquisto è diminuito dell'1,6%. È un segnale non secondario, perché non è che in passato non ci siano stati dei momenti di difficoltà per le famiglie, eccetera, ecco, ma era aumentato meno, come dire, non era diminuito. Vabbè, è una selezione di istantanee. Ne potremmo aggiungere delle altre. La disuguaglianza sociale, che certamente questi dati ci fanno pensare che adesso è aumentata in questi ultimi tempi, è fatta di tante cose diverse. Se facessimo delle analisi più sottili non potremmo accontentarci di un parametro. Si può essere disuguali sull'accesso alla salute e più uguali su un altro parametro come la casa o cose di questo genere, no? Però di solito appunto adoperiamo come accettabile indicatore sintetico il reddito della famiglia. Allora, teniamo presente che fra i paesi sviluppati l'Italia è uno dei paesi a più alta diseguaglianza sociale, viene secondo o terzo, a seconda degli anni, rispetto agli Stati Uniti e l'Inghilterra. Allora, o siamo al pari dell'Inghilterra subito dopo gli Stati Uniti, o subito dopo questi due. Siamo uno dei paesi più disuguali. Allora, se questo è sullo sfondo, andiamo a vedere cos'era successo l'altra volta, cioè all'inizio degli anni 90. Perché questo ci permetterà di dire che, attenzione, si vedono delle cose, però calibriamo bene. Anche perché se poi facciamo delle immagini catastrofiche, ce ne andiamo tutti a casa. Non sappiamo, ci viene da piangere, buonanotte. Mentre invece dobbiamo darci da fare, no? C'è un effetto paralizzante di immagini. Allora, andiamo a vedere cosa è successo l'altra volta. Allora, la recessione dei primi anni 90 era stata in Italia di più breve durata rispetto a molti altri paesi. Quella volta avevamo reagito bene. Non è affatto detto che adesso reagiremo allo stesso modo, perché era più facile allora reagire. Comunque sia, era stata di più breve durata, ma attenzione, aveva generato in quei primi anni 90 un netto aumento della disuguaglianza, misurata con i soliti parametri che gli statistici adoperano per questo. Attenzione, che cosa è successo negli anni successivi? Negli anni successivi, come dicono gli statistici, i movimenti delle misure aggregate di disuguaglianza dei redditi, come anche quello delle persone in condizioni di povertà, non indicano un peggioramento. Dopo questo salto, la disuguaglianza sociale non è aumentata negli anni successivi. Però quel salto non è più stato riassorbito. La disuguaglianza è aumentata. Stiamo parlando in termini aggregati. Attenzione però, perché i dati aggregati non cambiano? Non cambiano perché sono aumentati in quegli anni successivi i redditi di lavoratori autonomi e di dirigenti, ma a scapito di quelli di impiegati operai. Cioè, se facciamo un'analisi disaggregata per categorie sociali, in qualche modo ritirando fuori le classi, no? Ma anche se questi dati sono sporchi, perché il lavoratore autonomo è una categoria che ha dentro una cosa e il suo contrario, no? Quindi molto complicato. Comunque, se lo riferiamo alle categorie professionali, possiamo dire che la stabilità della misura aggregata è compatibile con una tendenza di divaricazione sociale nel periodo. Quindi non è una situazione catastrofica, ripeto, no? Però ci sono chiari sintomi di divaricazione sociale già l'altra volta, in una situazione meno grave. E ci sono altri due punti da considerare in quegli anni. Il primo è la crescita della mobilità dei redditi nel tempo. Cosa significa? Significa che c'è più incertezza nel tempo e per il futuro. E il secondo, di nuovo, è un peggioramento delle condizioni dei giovani, ovviamente per l'ingresso nel mercato del lavoro e condizioni atipiche, eccetera. Morale della favola: se da questi primi dati non deriva un quadro drammatico di crisi sociali negli anni della prima crisi finanziaria, tuttavia si può dire che emerge con una sufficiente chiarezza una tendenza di divaricazione sociale, che è quella che appunto sta sullo sfondo dell'interpretazione dei sociologi di questi anni. Potremmo aggiungere altri dati. A me sembra molto interessante, se non siete stanchi e vi interessa ancora qualche altro dato sulla crisi di oggi, o meglio, qui stiamo parlando della crisi, della prima crisi degli anni di 20 anni fa circa, dato di disuguaglianza che ci permette di capire di nuovo la delicatezza della situazione dei giovani. E un dato interessante per questo è l'andamento della ricchezza accumulata, cioè quello che di solito chiamiamo il patrimonio. Patrimonio è fatto da alcune attività, diciamo, no? Uno ha la proprietà della casa, la proprietà di certi fondi di investimento, quello che è, e poi c'è delle passività, cioè ha dei prestiti che gli sono stati fatti, ha acceso dei mutui. La somma algebrica di queste due cose è quello che io posso chiamare il patrimonio o la ricchezza di una famiglia. Bene. Perché è interessante questo dato? Perché evidentemente il patrimonio è un indicatore della capacità di resistenza in caso di difficoltà. No? Se io non ho troppi debiti e se io ho qualcosa da parte, resisto meglio di uno che non ce l'ha. Bene. Attenzione, i dati disponibili ci dicono che fra il 1989 e il 2004 la ricchezza accumulata dagli italiani è cresciuta, di nuovo, con riferimento a valori mediani. Che cosa vuol dire? Che il dato mediano è quello che divide in due quelli che stanno sopra e quelli che stanno sotto. Ecco, questa linea si è spostata verso l'alto. E questo per tutte le fasce di età, per tutti i tipi di famiglia, cioè monoreddito, bireddito, plurireddito, eccetera, in combinazioni diverse. Quindi, di nuovo, stiamo attenti prima di veicolare un'immagine catastrofica di cosa è successo nelle reazioni a quegli anni di difficoltà. E tuttavia, di nuovo, però, se vogliamo fare i pignoli e cercare di capire più in profondità come vanno le cose, bisogna andare a vedere i dati di nuovo disaggregandoli. Allora cosa troviamo? Qui una cosa interessante. Il distacco fra famiglie giovani, cioè con capo famiglia che non ha più di 35 anni, e le famiglie adulte, che sono le più ricche, è aumentato in modo costante. Cioè, tanto le famiglie dei giovani in media aumentano, però il distacco si rafforza. Non solo, ma le famiglie mature hanno superato quelle giovani. Una volta i vecchi avevano un capitale inferiore a quello delle famiglie fino a 35 anni, adesso non è più vero. Morale della favola, come vedete, tutto questo ci conferma che i giovani, è questo che preoccupa, no? Perché i giovani poi alla società sono quelli che stanno facendo tutti i percorsi per consolidare una posizione rispetto a una situazione. Così come sulla questione dei vecchi, sappiamo che lì ci sono delle pensioni che non saranno mai più così ricche. Quindi sono dei meccanismi compensativi all'interno delle famiglie che tendono ad esaurirsi. Un altro dato che forse vale la pena di citare è che le famiglie più solide sono quelle bireddito. Se usciamo dal bireddito le cose cominciano ad essere più problematiche, cioè devono lavorare in due se si vogliono tenere questi standard. E sappiamo che la condizione che uno dei due in un'economia instabile perde un lavoro e diventa sempre più probabile, giuste le condizioni di prima. Attenzione, se con questa serie di dati torniamo alle classi sociali, confermiamo quello che avevamo già visto con l'andamento del reddito, cioè la perdita di terreno della classe operaia. Più precisamente, constatiamo una ricchezza totale mediana che è immutata nel periodo, mentre le altre classi lo aumentano. Una diminuzione percentuale delle famiglie con una casa di residenza in proprietà. In Italia moltissime hanno una casa in residenza in proprietà, quindi di nuovo calibriamo bene la cosa. Però gli operai che hanno una casa in proprietà sono in questo periodo relativamente diminuiti. aumento dei nuclei indebitati per motivi non attinenti all'acquisto di casa, casi di ricchezza netta totale negativa e aumento della disuguaglianza interna nella distribuzione della ricchezza. Cioè all'interno della classe operaia sono aumentate le differenze. Vabbè, non insisto più su questo, perché credo che si vedano quelle derive di divaricazione sociale, no? Di cui avevamo parlato. Se volete anche qui usare un'immagine un po' immaginifica, potremmo parlare di una specie di bradisismo sociale, no? Che sta distanziando categorie diverse e le persone all'interno di queste categorie. Non sono forti questi qui, queste tendenze, non sono state, scusate, stiamo parlando dell'altra crisi, no? Quella dei primi anni 90, però sono molto, molto evidenti e possiamo immaginare, ecco, allora, cosa ci insegna questa esperienza di qualche anno fa per la situazione di oggi? L'impressione è che dobbiamo darci molto da fare per cercare di far fronte a queste tendenze, perché insomma la doccia questa volta è molto più fredda che non l'altra volta. Ecco, ma soprattutto, concluderei in questo modo. Che ci sono almeno tre riscontri in questo percorso che vi ho offerto sui dati dell'altra volta, che ci dicono che dobbiamo veramente agire presto, senza contare molto su quelli che di solito ci vengono presentati come le risorse nascoste dell'Italia, no? Della famiglia, piuttosto che poi sono risorse che a volte sono persino illegali, no? Ci dicono, vabbè, intanto poi però è vero che questi dati non tengono conto dell'evasione fiscale piuttosto che di altre cose. Ecco, non contiamoci troppo. Ecco, ci sono almeno questi riscontri che uno dovrebbe segnarsi come lezione dell'altra volta. Intanto abbiamo visto che i cittadini per difetto già si vedevano già allora. Quindi sono tra di noi. E soprattutto, secondo punto, molti di questi sono giovani e sono sempre di più giovani. Ecco, il terzo punto che sottoporrei alla vostra attenzione è, come lezione dell'altra volta, supponiamo anche che come l'altra volta adesso aggiustiamo le cose dal punto di vista economico, sarà più difficile, no? Ma supponiamo che lo facciamo anche relativamente presto e bene. Ricordiamoci che la disuguaglianza che è stata prodotta l'altra volta non è stata riassorbita. Se si verificasse lo stesso meccanismo, potremmo supporre che la disuguaglianza è aumentata in questa fase e non viene riassorbita. Morale della favola, dovete sommare le due disuguaglianze. Quindi tutto questo ci fa dire che effettivamente siamo di fronte a fenomeni di aumento della disuguaglianza sociale, che in parte queste sono ancora riconducibili alle categorie professionali, o se volete alle classi sociali, o se volete alle condizioni di lavoro, che tutte le altre cose che possono complicare questo discorso sono importanti da considerare, perché ci fanno capire anche modi di uscirne, che non possono più essere semplicemente quelli del passato, quando erano tutti giocati sulla regolazione, i vecchi meccanismi che si erano stati inventati, anche se sono importanti, e che però bisogna darsi da fare presto, come dire, e bene, perché forse il tempo rischia di scadere presto.